24 mattino. Contrordine, care ascoltatrici e cari ascoltatori, per una serie di problemi tecnici oggi non siamo in grado di ricevere le vostre voci, i vostri WhatsApp audio. E quindi mi dispiace per quelli che l'hanno mandati stamattina, tra le 6:30 e le 7, però niente da fare, scrivete al 349-238-6666 se volete dire la vostra, se volete dirci le vostre idee, SMS, WhatsApp, e quindi non WhatsApp audio, ne soffro. Questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Sono le 7:21 minuti, è lunedì 22 giugno e direi che iniziamo come sempre dai titoli dei giornali, dai titoli di apertura, che sono divisi in due oggi. Da una parte si parla di tasse e di IVA, dall'altra di giudici, di magistratura. L'apertura della stampa: l'azzardo di Conte, tagliamo l'IVA. IVA taglio da 10 miliardi, è il titolo della Repubblica, e mette giù anche un numero a questo punto. Spacciatori di tasse, il titolo del giornale. Crisi shock, Conte vuole tagliare l'IVA. Più freddamente il quotidiano nazionale. Governo diviso sul taglio dell'IVA, ci mette anche il carico delle divisioni tra PD e 5 Stelle, il Messaggero, E il Corriere della Sera invece si dedica appunto alla giustizia. Verifiche su 20 giudici, le mosse del CSM dopo le accuse di Palamara e i colleghi che replicano basta mistificazioni. Volano gli stracci, anzi le toghe, è il titolo della Verità. Libero ci porta sul virus e soprattutto su come sono andate, come è andato questo fine settimana. Italiani tutti al mare, se ne infischiano del virus, è il titolo di Libero. Spiagge esaurite e ciao mascherine. Il Fatto Quotidiano si dedica alle apparizioni televisive di Matteo Salvini. Salvini è dappertutto in TV, batte pure il coronavirus, ci dice il Fatto Quotidiano. Il Foglio del lunedì, un numero un po' più pensato, come sapete. Il pezzo di apertura è firmato da Enrico Bucci, professore alla Temple University di Filadelfia, quello che si sta occupando di vicende Covid per Il Foglio, ed è un pezzo molto bello e molto consigliato che si intitola Processo alla mala scienza. Il Covid ha agito come potente acceleratore della ricerca biomedica, ma anche amplificato le debolezze della comunità scientifica moderna, dalla corsa alla comunicazione ai modelli di preparazione, al dibattito che si è politicizzato. Il Sole 24 Ore ci comunica che sul fronte del denaro riciclato si contano 1,8 miliardi e c'è un allarme per i reati post pandemia. La Gazzetta dello Sport titola sull'Inter: potere Lula, ritorna la coppia vincente, e a centropagina l'Atalanta che forza la partita del ricordo tra brividi e gol. E porta anche l'editoriale di apertura di Stefano Barigelli, che è il nuovo direttore della Gazzetta dello Sport. La casa dello sport è il titolo. Da cosa iniziamo oggi? Allora, sono un po' indeciso. Direi che possiamo partire dalla questione dei test sierologici ancora una volta, perché insomma un po' tutti i giornali ce lo ricordano in prima pagina, e anche le notizie che arrivano dall'estero, parliamoci chiaro, non solamente quelle da Pechino che ben abbiamo raccontato la settimana scorsa, ma anche quelle che arrivano dalla regione tedesca del Nordrhein-Westfalia, dove in un macello sono stati trovate centinaia di casi, si sta valutando la chiusura dell'intera regione. Si è scoperchiato un problema niente male che ha a che fare anche con le condizioni delle persone che lavorano là dentro. Quindi il virus non è finito e i dati ce lo testimoniano tutti i giorni, adesso questo senza far naturalmente del terrorismo, però andando a guardare come stanno le cose. E in Italia come procedono le cose dal punto di vista dei test sierologici e della famosa app Immuni? Non molto bene, stando a quanto ci racconta il Messaggero a pagina 12. Il titolo del pezzo è proprio così, Test sierologici e immuni, il doppio flop della fase 2. I test sierologici, la vicenda la conoscete, il pezzo lo firma Mauro Evangelisti, la vicenda la conoscete, è quella dei test sierologici che avrebbe dovuto fare la Croce Rossa utilizzando i dati dell'Istat, o meglio un campione di italiani rappresentativo della popolazione scelto dall'Istat, 150.000 persone, i quali 150.000 italiani però si stanno rifiutando. Finora sono stati in 50.000 ad aver detto sì, e però non sono rappresentativi della popolazione italiana, e quindi è un campione che non va bene. Serviva questo test per capire quanto fosse effettivamente diffuso, quanto si fosse diffuso il virus in Italia. Ma le cose, appunto, ci racconta Mauro Evangelisti, non stanno andando bene. I risultati della grande indagine nazionale con 150.000 test sierologici per calcolare quanti italiani siano venuti a contatto con il coronavirus dovevano fornire dati preziosi per gestire le riaperture. Il lockdown però è terminato da più di un mese, ma l'esito della ricerca non c'è, anzi, i tempi sono stati dilatati, prorogati fino al 30 giugno. Come mai? Molti degli italiani ai quali la Croce Rossa ha telefonato per chiedere collaborazione rispondono: no grazie, non voglio fare il test sierologico. E qua il Messaggero sente anche il professor Walter Ricciardi, docente dell'Università Cattolica di Roma e consigliere del Ministero della Salute, che offre una doppia spiegazione. Io vi dico, a me convince un po' di più la seconda, però sentite qua. Ci sono due elementi. Il primo è l'obiettiva distanza tra gli italiani e la scienza. Per gli italiani le questioni scientifiche rimangono difficilmente comprensibili. Secondo elemento, quello che mi convince di più, bisogna migliorare la comunicazione, far capire che iniziative come la campagna e i test sierologici sono importanti, forniscono elementi alla scienza che possono aiutare tutti. No, scusate, c'è un terzo elemento che forse è ancora più importante. Molte persone temono, dice Ricciardi, che se risultassero positive al sierologico, di dover restare isolate in casa in attesa del successivo tampone, che è la vera questione. Invece bisogna spiegare bene, dice Ricciardi, che il Servizio Sanitario Nazionale si farà carico del percorso e le regioni devono assicurare tempi rapidissimi per i tamponi. Però siamo al devono assicurare, non siamo all'assicurano tempi rapidissimi per i tamponi, e qua si annida il problema, e anche Immuni non sta andando benissimo. E in tutto ciò, ci chiedeva prima un ascoltatore, un'ascoltatrice, alle scuole non pensa nessuno. Sì, ci si pensa, ma ci si pensa, mi par di vedere, un po' marginalmente. Nel frattempo la Regione Lazio, racconta sempre il Messaggero a pagina 29, ha detto: guardate, prima della riapertura delle scuole faremo 100.000 test sierologici al personale docente, non docente, ai presidi, a tutti quelli che entrano negli edifici scolastici. E i presidi adesso chiedono di farne anche agli studenti. Attenzione, parliamo di 400.000 test sierologici in tutto, tra personale docente, non docente, tra studenti, tra i 182.000 iscritti alle superiori nei licei di Roma e provincia, 118.000 i ragazzi di Roma e provincia che frequentano la scuola media. Anzi, scusate, sono molti di più, perché qua stiamo parlando solamente di Roma, mentre invece il Lazio, come ben sapete, ha altre province e anche piuttosto popolose. La riflessione, ci racconta Camilla Mozzetti a pagina 29 in cronaca di Roma al Messaggero, è maturata in questi giorni tra gli esami di maturità e l'annuncio della Regione Lazio che, in vista di settembre, della ripartenza della didattica in presenza, ha garantito l'indagine sierologica a tutto il comparto scolastico, docenti, personale amministrativo e collaboratori per circa 100.000 persone. Ma appunto i presidi chiedono di valutare la possibilità di estendere le analisi anche agli studenti. Non sarà per nulla facile. In tutto ciò veniamo da un fine settimana che ben ci viene rappresentato, per esempio, dalla stampa a pagina 8. Movida, spiagge e risse in strada, incognita sulla ripartenza. È già, perché il fine settimana è stato anche questo, Più che una pandemia, scrive Fabio Poletti, un pandemonio. Dalle spiagge ai luoghi della movida il coronavirus sembra dimenticato. Zero mascherine, zero distanziamento sociale, tutti ammassati con la birretta o l'olio solare. Il primo weekend estivo è stato all'insegna dell'incoscienza. Ovunque scattano molte denunce, ma evidentemente non abbastanza denunciati i ragazzi della rissa del ci mancherebbe altro, i ragazzi della rissa del sabato sera, con due feriti a Jesolo, chiusi tre locali a Roma per il mancato rispetto della normativa, multe per ubriachezza molesta a Firenze, 200 sanzioni per movida selvaggia. Cos'è? Che reato? Vabbè, insomma, comunque 200 sanzioni per movida selvaggia a Bari, ci racconta Fabio Poletti, in un fine settimana che è stato un fine settimana di delirio per chi è andato e poi è dovuto tornare dalla Liguria. Ebbene, lo racconta la Repubblica, pagina 21, risse, assalti ai treni e viaggi nella cappelliera, cioè c'è gente che si è arrampicata nella cappelliera per poter viaggiare, con una Liguria che va in tilt. Ieri mattina, racconta Massimo Calandri, ci mancava uno scambio guasto a Pavia con due ore di ritardo sull'Intercity da Milano. Povera Liguria, doveva essere il primo vero fine settimana di vacanza estiva sulle spiagge, si è trasformato in un incubo e in un clamoroso autogol per l'immagine di una regione che cerca faticosamente di risollevarsi dopo i danni delle alluvioni e il crollo del ponte Morandi. Abbiamo ancora una trentina di secondi. Beh, non possiamo farci mancare pagina 4 del Fatto Quotidiano, le iniziative politiche che veramente. Lorenzo Giarelli a pagina 4 del Fatto Quotidiano ci racconta che Massa è derossizzata, daspo al Partito Democratico. Derossizzata vuol dire, parliamo del presidente della regione, del presidente della regione Rossi. Forza Italia vuole rendere Massa il primo comune derossizzato. Che significa? Vuol dire che sotto al cartello Massa Città per la Pace, che adesso accoglie chi arriva in città dall'Aurelia, ci potrebbe essere presto una nuova insegna: vietato l'ingresso al presidente della regione Toscana Enrico Rossi. Ma io non lo so, ragazzi, sembra al massimo una rivisitazione di Don Camillo e Peppone. Eppure i forzisti giurano di essere pronti a presentare la proposta in consiglio comunale, affidandosi al daspo urbano voluto da Marco Minniti e inasprito poi da Matteo Salvini. L'idea viene al presidente del consiglio comunale massese Stefano Benedetti, al compagno di partito Giovan Battista Ronchieri, convinti che Rossi, dopo aver causato tanti danni al territorio, debba essere tenuto lontano, al pari di chi, beccato a delinquere, viene allontanato per motivi di sicurezza. Una pausa, va. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Mattino. Mi scrive Giovanna che suo figlio ha fatto il sierologico e due giorni dopo gli hanno fatto il tampone. Vero Giovanna, ci sono anche casi come questo, anzi sono molti naturalmente, però ci sono anche molti casi di persone che sono rimaste bloccate tra il sierologico e il tampone magari anche per due o tre settimane, e questo è quello che un po' frena l'indagine che sta effettuando la Croce Rossa e che frena tutti dal fare il sierologico. Caro Paolo Mieli, buongiorno e buon lunedì e buon inizio di settimana, eccoci. Qui siamo al caos per quello che riguarda il virus, nel senso che è chiaro, segnale. Anzi, parto da un'altra cosa. Oggi ho dato un'occhiata alle prime pagine dei giornali di tutto il mondo e l'allarme ancora dei giornali di tutto il mondo, compresi i grandi giornali europei, sul Covid è ancora alto. Da noi invece, vedo una pagina 9 del Corriere della Sera, divertimento, migliaia di persone affollano la notte nelle grandi città, torna la movida, multe e denunce, Libero è ancora più sfrontato, spiagge esaurite, ciao mascherine, italiani tutti al mare, se ne infischiano del virus, nel primo giorno d'estate è scattata l'evasione di massa dalle galere domestiche, c'è voglia di divertirsi, alla faccia dei menagramo che continuano a metterci paura. Sì. Repubblica, Luca Fraioli, pagina 19, più contagi del previsto, così la Lombardia rischia la seconda ondata. Gli esperti dell'Università di Genova, nella regione due terzi dei nuovi casi, con gli asintomatici si forma il serbatoio per il ritorno del virus in autunno. Non so se è chiaro, sì. Il problema non è, perché tutti dicono, hanno festeggiato per il Napoli, se dopo 10 giorni non si vedrà un'esplosione, un focolaio, siamo salvi, vuol dire che si può festeggiare e fare quello che raccontano la prima pagina di Libero e pagina 9 del Corriere della Sera. No, il problema è che si crea un serbatoio di asintomatici che deciderà lui quando venire, quando emergere, quando emergere, certo. E, insomma, in questo... No, dicevo, in questo clima, no? Che è un clima chiaramente di preoccupazione, si guarda molto e molti giornali aprono invece sull'aspetto economico, no? E sulle mosse del governo. La questione è un po' questa dell'IVA, sulla quale tutti si concentrano. Addirittura Repubblica dà una cifra, 10 miliardi, che sono un paio di punti e qualcosa di IVA, due punti e mezzo di IVA. Titolo di testata di Repubblica, Conte, Italia da reinventare, ipotizza un taglio dell'IVA. Sono tutti preoccupatissimi da questo annuncio, sarà il solito annuncio, probabilmente non avrà seguito, è una cosa per passare altri 2 o 3 giorni della settimana, ma a cominciare dal ministro Gualtieri. Il ministro Gualtieri, tutti registrano in tutti i giornali che è molto perplesso su questo taglio dell'IVA, non ti dico gli editorialisti. Alessandro De Nicola, che è un liberista, non è, a pagina 21 della Stampa, in prima, però così la pagina 21, dice: inoltre, abbassare l'imposta sul valore aggiunto è molto costoso e spalmando il taglio sui vari prodotti si può avere un beneficio di massimo di un paio di punti percentuali. In un periodo di inflazione zero, con accenni di deflazione, non è il 2%. In meno che fa comprare un paio di scarpe in più, molto meglio incentivare gli investimenti anche in materiali come l'istruzione e tagliare le imposte regressive come l'IRA. Sì. Poiché il Premier ha cautamente dichiarato che il governo ci sta pensando, ecco, ci rifletta velocemente e lo accantoni. Costa molto e non è efficiente. Che sembra essere Paolo, tu citavi già Gualtieri, anche il pensiero più in generale del Partito Democratico, stando a quel che scrive il Messaggero a pagina 3, no, con un Partito Democratico che gli dice: attenzione, sono più urgente tagliare le tasse sul lavoro. È un po' ci dà la percezione su dove virerà il dibattito nei prossimi giorni. Peccato che il Partito Democratico in questi giorni abbia i suoi guai, perché il sindaco di Bergamo Gori ha chiesto, adesso la semplifico, che Zingaretti lasci il passo a un altro segretario, ed è in piena tempesta. Apparentemente Gori è solo contro tutti, perché oggi i giornali registrano un coro affettuosissimo nei confronti di Zingaretti, però per chi conosce bene la storia di quel partito, questo coro affettuosissimo è un coro che può essere ipocrita. Comunque al coro si aggiunge anche Giuliano Ferrara, che sul Foglio dice che adesso a lui piace da morire Marco Travaglio. A parte che mi tocca apprezzare la follia un editoriale di Marco Travaglio che scortica i retroscenisti e altri perditempo, dice: Nicola Zingaretti sì, non è quello che mi sarebbe piaciuto a me, il contrario dei leader che sarebbero piaciuti, però in questo momento è quello che ci vuole, le azzecca tutte, è un bravissimo segretario e ha delle lodi che sono appena un gradino sotto a quelle che riceve Conte. Qual Conte ieri, come hai visto, ha chiuso gli stati generali della... Sì. Secondo me il tono dei giornali su questa chiusura degli stati generali con gli artisti è un po' di sfottò, io non lo so. Un filino, ho l'impressione. Ieri è stato il giorno degli artisti e allora tutti, non so, per esempio la pagina 3 del Corriere della Sera, secondo me è lo sfottò, perché pubblica 3 grandi, insomma, discrete interviste, una a Monica Guerritori, ha spiegato al Premier come rivoluzionare il teatro, poi una all'architetto Massimiliano Fuchs, smart working, spazi comuni, ho suggerito che cosa fare. Elisa. Ma la terza, è la terza quella un po'. La cantante intorno a Luce, ma è intorno a Luce perché gliel'ha chiesto il Premio. Cioè, faccio sentire un po' come canta Luce. E poi ha fatto tutto un pistolotto su come tutelare i lavori più deboli. Secondo la Verità era la copiata da un palinsesto del Rai 3 o della 7. Dice la Verità che in giornata di chiusura degli Stati Generali, sembra copiata un po' di testo televisivo, perché c'erano in effetti artisti, cantanti, però insomma adesso così. Avendo chiuso così gli Stati Generali, c'è da attendersi che cosa sostituirà gli Stati Generali, perché difficilmente credono che potremmo vivere senza qualcosa tipo gli Stati Generali. Sì, danno un po' colore il dibattito sull'IVA. Non decolla o non decolla a favore del governo, mentre con gli Stati Generali ci eravamo un po' abituati a Villa Doria Pamphili, a questo suono di uccellini sotto le conferenze stampa, no? Quest'aria bucolica che attraversava il tutto, traffico. Ascolta, è il momento di riaccendere i motori. Con Iveco Daily ripartire è più facile. Bastano poche semplici mosse. Scegli subito il Daily più adatto a te, lo ritiri e inizi a pagarlo tra 6 mesi. Nuovo Daily. Cambia prospettiva al tuo business e riparti con Iveco. Richiedi un preventivo alla tua concessionaria o chiama l'800-800-288 o visita il sito iveco.it. Offerta valida fino al 31 luglio. Fogli informativi e condizioni presso le concessionarie aderenti e salvo approvazione Iveco Capital. Iveco, l'Italia che vince. Digli di comprarsi un Daily. Mattino. Ed eccoci di nuovo, caro Paolo. Passerei alle questioni che hanno a che fare con la magistratura. Sono l'apertura del Corriere della Sera e della Verità. Il tutto nasce da un'intervista realizzata dal quotidiano La Repubblica con Luca Palamara nell'edizione di ieri, nella quale Palamara dice: guardate, i coinvolti in tutta questa vicenda sono molti di più e l'ANM dovrà occuparsene, no? La teoria della mela marcia, che un organismo se lo possa cavare dicendo: beh, fra di noi si nascondeva una mela marcia, basta buttarla fuori dal cesto e tutto può riprendere, non ha mai portato tanta fortuna a chi l'ha applicata, e soprattutto perché Palamara è stato il capo dell'Associazione Nazionale Magistrati, non era una mela qualsiasi, qua è il cesto che è marcio nel caso in cui giudichiamo. Comunque lui ha fatto dei nomi dei colleghi, alcuni erano quelli, per esempio non sono molto d'accordo su un titolo fatto dal giornale: Palamara finge di fare i nomi ma sono quelli noti per ora. Non è vero, c'erano dei nomi fra quelli fatti nell'intervista a Liana Milella da Palamara, come quello di un personaggio non poco importante che è Eugenio Albamonte, il PM romano che è segretario di area ed è stato anche lui presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, che non era, mi sembra, nelle intercettazioni. Quindi ci sono nomi nelle intercettazioni e non nelle intercettazioni, sono tutti nei guai. E soprattutto, giustamente citavi il Corriere, perché un articolo di Giovanni Bianconi dice che al CSM sono sotto esame per incompatibilità 20 magistrati. Aia, 20 magistrati sono tanti. Tanti. E poi vuol dire che non si chiude con l'espulsione di Palamara, ma è una storia che riprende e poi ci sono tutte, ricominciano tutte le indiscrezioni, perché il suscitato Albamonte, siccome è stato chiamato in causa per una cena con rappresentanti della presa, dice: ma le cene e il dialogo non sono trame, quelle erano cene. E allora adesso bisognerà fare una distinzione fra cene per magistrati, sì, e politici, che sono di trama, e cene non di trama. Sì. Bisogna... E tu sarai chiamato a giudicare. io personalmente, tra l'altro, sì, un proprio... senatore professionale. Sì, sì, sì, cena si trama. Esattamente, vengo chiamato preventivamente, mi chiamano là e mi dicono: guarda, questa è una cena di trama, Spezia, questa è una cena di trama, e io dirò: no, questa non è una cena di trama, e quindi si può procedere. Sì, comunque Albamonte faceva cene, quello che dice, faceva cene non di trama, fu nominato secondo le regole, querelo per diffamazione. Cominciano anche le querelle, sarà curioso vedere se qualcuna, visto che sono magistrati, se qualcuna di queste querelle arriva a giudizio, no? Sì. Querella, segnalo che sempre sul Corriere Donatella Ferranti, ex deputata del PD e segretaria del CSM, oggi giudice di Cassazione, dice che lei proprio di cene non ne faceva, incontri solamente in sedi istituzionali, e dice... Certo, il famoso registro Spezia nel quale vengono annotate le cene tra magistrati e non solo tra magistrati. Ma tu, intanto i reati continuano, hai visto l'apertura del Sole 24? Sì, notevole, i dati sul riciclaggio. Per 1,8 miliardi, allarme dei reati post-pandemia. Sì. Cioè, il post-pandemia è un regno dei reati. La Guardia di Finanza nel 2019... L'attività di contrasto, 1.168 indagati, 2.351 persone denunciate, 253 arresti, verificate 83.000 operazioni sospette. Continuano i flussi illeciti, fatture false, appalti truccati, artifici contabili, insomma... Del resto però, se abbiamo questi dati che ben ci illustrano, ce li illustrano Marco Mobili, Giovanni Parente, Valerio Vallefuoco a pagina 3, e che raccontano di una parte del paese che non rispetta le leggi, abbiamo anche notizie, sempre dal Sole 24 Ore, di uno Stato che non rispetta le regole. E il riferimento è alle infrazioni europee. L'Italia è al top per condanne, ci racconta Marina Castellaneta. Esatto, al top delle condanne, ingiunzione a livello mondiale per Facebook, Airbnb non valgono le norme alberghiere, code sharing, l'emittente risponde dei ritardi. Beh, insomma, certo, avere questo record e in più, non so se hai visto, al secondo posto dopo la Russia, boom degli indennizi da versare per violazione dei diritti umani. Ecco, ci mettiamo questa ciliegina che ben conosciamo, perché sono i diritti della violazione dei diritti umani è una delle cose più gravi. L'Italia al secondo posto tra i paesi del Consiglio d'Europa per gli importi dovuti a seguito di condanne arrivate da Strasburgo, peggio di tutti solo la Russia, pazzesco. Senti, Paolo, volevo chiudere con te molto rapidamente su questa storia di Trump, il palazzetto di Tulsa nel quale va a fare il comizio, nei giorni scorsi avevano detto i suoi sostenitori, o meglio il suo comitato elettorale aveva detto si è prenotato 1 milione di persone e alla fine il palazzetto era praticamente deserto. C'è la foto notizia un po' su tutti i giornali, in parte è stata l'organizzazione dei ragazzi su varie piattaforme TikTok, di social network, TikTok, in particolare TikTok. Si prenotavano e poi non andavano, è diventato un gioco di massa negli Stati Uniti, fra i ragazzi non se ne sono accorti, ma la cosa che più mi ha colpito è stata che il capo dell'organizzazione di Trump ha detto: ma quando mai, noi questo trucco l'avevamo già scoperto e smontato, non è questo, ma non rendendosi conto che dicendo così vuol dire che era vuoto, perché la gente non ci ha voluto andare. In fondo la cosa di TikTok era un'ottima scusante, purtroppo ci hanno imbrogliato, sta un gioco, ma dire no, era tutto previsto, erano stati bravissimi, forse gli salva la poltrona. Sì. Agli occhi di Trump, ma non credo, perché Trump gli chiede allora come mai era vuoto. Come mai era vuoto, è certo. Dobbiamo veramente chiudere. Sei sempre precipitoso. Lo so, però non posso giudicare in questo caso. Chissà che trama è stata questa che ha tenuto vuoto il palazzetto di Tulsa. GR24 a tra poco con Maria Latella, i nostri ospiti, a tra poco.